Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 con Personal Best, il corso di corsa alla radio. Con me, come sempre, Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Altro capitolo oggi dedicato all'infinito mondo dell'alimentazione sportiva, e torno con noi la biologa e nutrizionista, nonché triatleta, come diciamo sempre, Francesca De Riu. Buongiorno a tutti. Argomento quanto mai di attualità, visto il periodo caldo, è anche la mancanza di riposo, cosa che ci riporta all'avventura di Ivana nella sua lunghissima corsa sul Monte Bianco. Sì, dunque, io nelle prime 24 ore non ho mai dormito. E poi successivamente facevo microsonnellini di massimo 15-20 minuti e sono riuscita a farcela, nel senso che sì, qualche volta mi è venuta qualche allucinazione poi vabbè, vi posso anche raccontare quelle che fanno molto ridere, però era fondamentale il fatto che dopo appunto mangiato riuscissi a coricarmi per pochi minuti, e quello mi dava l'energia per poi affrontare le altre 3 ore di corsa. Okay. Ed è incredibile, perché sono comunque riuscita a resistere per 83 ore dormendo ogni 3-4 ore un quarto d'ora, 20 minuti. Ma il corpo è pazzesco, perché la capacità del corpo di abituarsi, di adattarsi a questo ritmo, alla fatica. E poi forse anche un po' la forza della mente, no? Che ti permette questo. Di continuare. Sì, di continuare. E come questo si collega all'alimentazione, ce lo racconta Francesca. Sì, allora, prima di tutto il sonno è importantissimo per il recupero, quindi per chi fa attività fisica intensa è fondamentale. Infatti non so poi quante ore di seguito abbia dormito Ivana, poi dopo glielo chiediamo. Ho dormito per 2 giorni. Però a parte questo, è vero che in questo periodo, per il caldo, in realtà si dorme di meno, si fa fatica. Ci sono comunque persone che sperimentano l'insonnia durante tutto l'anno e forse non sanno che ci sono alcuni cibi e anche dei comportamenti alimentari che possono aiutarci ad avere un sonno più di qualità, quindi senza ricorrere subito all'uso di magari integratori o erbe che non sempre sono graditi. Possiamo sfatare anche qualche mito? Forse. Possiamo sfatare sicuramente qualche mito, perché la tendenza generale è quella di evitare i carboidrati la sera, quindi la famosa pasta la sera che non si mangia per paura di ingrassare. In realtà la pasta è uno di quegli alimenti che mangiati a cena può favorire un sonno di qualità. E questo perché facilita proprio la sintesi della serotonina, che è un ormone che viene sintetizzato a livello cerebrale, perché contiene delle sostanze che, passando appunto al cervello, facilitano la produzione di serotonina, un aminoacido nello specifico che è il triptofano, che in realtà sta anche nelle proteine, ma il problema è che se mangiamo proteine non arriva il triptofano al cervello. Quindi la pasta alla sera sì, condita in maniera leggera, sempre accompagnata da verdure, quindi il pasto deve essere leggero, digeribile, ecco, quindi anche andare a letto subito dopo aver mangiato è sbagliatissimo, così come il consumo di caffè, cioccolato oppure alimenti che non sono, diciamo, graditi alla nostra digestione. Ok, come questo poi invece si collega a chi corre, diciamo, può essere utile mangiare dei carboidrati la sera per poi essere più performanti la mattina? Ci aiuta, sì, questo? Sì, certo, assolutamente sì, perché ci consente di accumulare un po' di glicogeno nei muscoli, quindi soprattutto se poi il giorno dopo prevediamo di fare un allenamento intenso, un piatto di pasta la sera, sempre accompagnato da un po' di proteine, un po' di verdura, è consigliato. Perché assolutamente. Nell'immaginario si pensa spesso che magari mangiare la pasta la sera, quelle calorie non vengano consumate, si trasformino poi in grasso. Esatto, insomma. Ovviamente la quantità è sempre, no? È sempre da controllare, il condimento è da controllare, ma la pasta, che è un alimento molto demonizzato, in realtà è un ottimo alimento per chi fa attività fisica. Io consiglio sempre una pasta integrale, però anche un cereale alternativo come un riso integrale o farro, insomma. Ma Francesca, anche una buona alimentazione può prevenire anche degli infortuni, oltre ad aiutare a dormire meglio. So che ci sono degli alimenti che possono anche aiutare, esatto, a prevenire qualche infortunio. Una alimentazione bilanciata, quindi che abbia tutti i nutrienti, carboidrati, proteine, grassi e sostanze antinfiammatorie che sono contenute soprattutto negli ortaggi freschi, quindi nella frutta, negli ortaggi, nella verdura di stagione, ma anche negli oli vegetali come l'olio extravergine d'oliva, quindi ad azione antiossidante, nel pesce, nelle noci, quindi nella frutta secca, sono dei validi alleati per la prevenzione anche degli infortuni. Quindi un'alimentazione bilanciata, ecco, è sana. Mangiare bene aiuta in questo senso, così come aiuta a non trascurare il recupero, quindi dopo l'allenamento. Ma quello che forse non si sa è che un'alimentazione sana e bilanciata aiuta anche nel recupero dagli infortuni. Quindi quando si è già fatti male, spesso questa cosa viene sottovalutata. In realtà non ci sono tanti studi, non ci sono delle linee guida ancora. Però quello che si fa in genere, soprattutto quando si sta fermi perché ci si è fatti male, è magari fare una dieta ipocalorica perché si ha paura di ingrassare. È vero che il nostro fabbisogno è diminuito perché stiamo fermi. Prima ci allenavamo magari 6 ore a settimana, adesso stiamo fermi, quindi il fabbisogno è diminuito. Però è giusto alimentarsi in maniera corretta, quindi secondo una dieta normocalorica che apporti soprattutto la giusta quantità di proteine che ci servono per ristrutturare i nostri muscoli e recuperare dall'infortunio. E sempre quei cibi antinfiammatori ci vengono in aiuto. E Francesca, si parla spesso di carboidrati, magari meno di proteine molte volte, soprattutto legate alla corsa. È quello che un po' interessa a noi, sono una parte importante le proteine per chi corre. Assolutamente sì. E le proteine sono dei nutrienti essenziali e il fabbisogno in un atleta è sicuramente aumentato rispetto a quello della popolazione generale. Ma non bisogna comunque esagerare, spesso si tende a fare delle diete iperproteiche, quindi diminuiamo i carboidrati, aumentiamo le proteine proprio per mantenere un peso accettabile, poi pochi grassi, no? Ovviamente questo è un altro errore abbastanza comune. In realtà quello che non sappiamo è che il nostro corpo non è così abile ad assimilarle tutte le proteine, quindi è forse meglio distribuirle durante il corso della giornata piuttosto che mangiarne una grande quantità, quindi a partire dalla prima colazione, agli spuntini, magari un po' di proteine, pranzo e cena, quindi piccole quantità distribuite che ci permettono di mantenere il senso di sazietà, perché sono importanti, danno tanta sazietà rispetto ai carboidrati, ci aiutano a mantenere una buona massa muscolare e anche appunto a prevenire i traumi e gli infortuni. E ci permette anche il recupero, le proteine? Assolutamente sì, sono fondamentali per recuperare, perché forniscono aminoacidi essenziali. In particolare gli aminoacidi ramificati sono appunto la leucina, isoleucina e valina, sono 3 aminoacidi essenziali che stimolano la sintesi delle proteine e anche lo stoccaggio del glicogeno a livello muscolare, per questo sono importanti nel recupero, oltre che avere anche una funzione energetica durante l'attività fisica. E da quali elementi possiamo prendere insomma questi aminoacidi? Più che magari pensare che molto spesso si pensa sempre a aminoacidi di origine farmaceutica, si può dire così. Esattamente, si pensa sempre agli integratori, invece noi possiamo tranquillamente trovarli nei cibi, quindi cibi come le uova, i latticini, la carne e il pesce forniscono tutti gli aminoacidi essenziali e ci sono poi anche proteine vegetali che forniscono aminoacidi. Sì. Svelo un segreto che durante l'impresa io cercavo di mangiare sempre delle cose che avevo voglia di mangiare, no? Ho iniziato così in modo tale da avere anche più stimolo poi a correre e a dire ok, adesso cos'è che voglio di mangiare nella prossima tappa? E pensate che dopo circa 40 ore, 45 ore avevo voglia di mangiare le uova strapazzate. Quindi evidentemente il mio fisico aveva proprio bisogno di questo tipo di proteine. Assolutamente. E per 2 volte ho cercato solo di farmi fare uova strapazzate. Quindi tutti alla ricerca, tutto il mio team alla ricerca di uova, perché io dovevo mangiare uova strapazzate. Sì, perché effettivamente durante un'attività di endurance si utilizzano anche le proteine a livello energetico, quindi si utilizzano sebbene in piccola quota questi aminoacidi ramificati che vengono utilizzati per produrre energia. Come nelle ultime ore è stato molto ridicolo perché avevo voglia e desideravo solo di mangiare patatine, alimento che io di solito non mangio mai, ma evito anche ai miei figli, e mangiavo solo patatine, formaggio, anche quello abbastanza grasso, perché evidentemente il mio corpo aveva bisogno di quelle. Ma le patatine sono una caratteristica di chi fa ma perché distanza, sono molto sembra. Salate, no? E il sodio è il minerale che perdiamo di più con la sudorazione, quello che alla fine rappresenta il minerale maggiormente, diciamo, rappresentato nel sudore, quindi quello che perdiamo di più è quello più importante sicuramente. Ok, perché parlavo anche un po' di tempo fa con Giorgio Calcaterra, altro ultramaratoneta, anche lui è golosissimo di patatine, evidentemente c'è un legame molto stretto tra l'ultramaratona e le patatine, insomma. Grazie a Francesca De Riu. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.